una delegazione dei precari, diciamo un'ottantina, sta occupando la direzione generale dell'Istat, l'ufficio del dottor Olimpio Cianfarani. Questo, diciamo, come un passaggio nella ripresa della lotta qui all'Istat contro la precarietà, e in particolare in corrispondenza dell'ennesimo atto che noi riteniamo provocatorio, e cioè l'uscita di un bando per l'assunzione di ulteriore personale precario, quando ancora non è stato risolto, insomma, diciamo, il bubbone dei 450 precari presenti in Istat, e l'amministrazione si permette di far uscire ulteriori bandi di assunzione di lavoro precario. Noi quello che ravvediamo in questo è, da una parte, la possibilità che queste nuove assunzioni vengano utilizzate, perché questo è un bando che quello che dovrebbe uscire domani è per una direzione centrale della contabilità nazionale, ma noi già sappiamo che stanno preparando ulteriori bandi di assunzione per altre direzioni, le direzioni sono le strutture in cui è organizzata l'Istat, e quindi pensiamo che da una parte questo qua possa essere avviare un turnover tra i precari in corrispondenza della scadenza dei contratti di altri precari nel 2005, che saranno molti, tra fine anno e il prossimo anno ne scadranno 250 contratti, per i quali per non tutti, diciamo, c'è la sicurezza della possibilità di rinnovarli nei processi in cui sono stati impiegati. Quindi diciamo che le nuove assunzioni si potrebbero prefigurare come sostitutive dell'attuale precari, ma non solo, d'altra parte, in seconda istanza, e questo potrebbe anche significare, dal momento che c'è un forte numero di pensionamenti in atto, e aumentare l'incidenza dei lavoratori precari sul corpo dei lavoratori in generale, e quindi rendere ancora più problematico per il futuro l'affrontamento di questo problema. Avete intenzione di andare avanti ad oltranza? Guarda, abbiamo avuto il presidente Biggeri è irreperibile, pare che lui arriva a Firenze questa mattina, non so se per sfuggire al confronto o per altri motivi, questo non siamo riusciti a capirlo, sembra che non abbia intenzione di venire a Roma. E il direttore generale al momento ha posto la discriminante che venga lasciata l'aula per poter aprire un colloquio, e il dottor appunto Cianfarani, e al quale abbiamo risposto che è possibile aprire un colloquio solamente se c'è stata una disponibilità di evocare quest'atto, mentre abbiamo avuto adesso un incontro che è terminato proprio pochi minuti fa con il direttore, diciamo, della produzione statistica, diciamo il numero due dopo il presidente e a fianco del direttore generale, che ci ha dato disponibilità a avviare nei prossimi giorni una serie di incontri per definire meglio come potrebbe funzionare, diciamo, come affrontare i problemi che nelle varie direzioni si stanno configurando in ordine alla richiesta, all'esigenza di nuovo personale, diciamo. Cioè vedere meglio, adesso non entro nel merito dei dettagli, insomma vedere meglio come affrontare il problema, ad esempio la contabilità nazionale c'ha bisogno di quattro persone, noi diciamo queste quattro persone devono essere cercate prima di tutto tra i precari a tempo determinato che rischiano di trovarsi senza rinnovo del contratto nei prossimi mesi, però loro si tratta di mettere in moto questi meccanismi. Allora c'è disponibilità da parte del professore, del dottor Zannella, direttore del Dipartimento Statistico, a affrontare queste cose nella prossima settimana, e proporrà al direttore generale la sospensione del bando di domani. Però a tuttora ancora non abbiamo, diciamo, l'impegno formale a sospenderlo, nel senso che il direttore del Dipartimento Statistico non ha facoltà di sospendere questo provvedimento, cosa che invece può fare il direttore generale, e quindi adesso vediamo come si risolva nei prossimi minuti, nelle prossime ore questo diciamo contrasto che spero che si sia avviato tra il direttore del Dipartimento Statistico e il direttore generale.